neve, la ragione e la follia si uniscono. Vivere con te è facile, è difficile, quando la patria è buona ad esistere. Razionalità e fretta di decidere, quando non sai mai se piangere o sorridere. Non c'è nessuno. Vivere con te è un fuoco che vuoi spegnere, per bruciare dentro poi lo vuoi ricendere. Vivere con te è tanto bello e inutile, quanto la mania di amarsi, di concludere. E la spiaggia un po' bagnata ed alti volano, pensieri sconnessi, sguardi che ora muoiono. Dentro gli occhi tuoi i denti freddi mordono, le parole